Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Fujiko. Siamo rientrati noi di 451 intersezioni dopo tre puntate in cui non siamo stati presenti, tre puntate che sono state condotte da tre nostri amici, oltre che amici di Pierantonio Pezzinga, conduttore amato nella radio e anche dai suoi compagni, purtroppo scomparso a marzo del 2014, qualche mese fa. Tre puntate che sono state condotte da vari amici, appunto per ricordarlo, soprattutto in vista del concerto che si è svolto proprio ieri al Teatro Fabbri di Forlì, concerto unico in Italia, splendido momento di incontro di tanti appassionati degli Errico che si sono appunto riformati, hanno costruito questo importante concerto in Italia, Forlì, con l'organizzazione in particolar modo dell'Area Sismica, con cui noi siamo collegati sia con 451 frammenti sonori che con questo spazio 451 intersezioni, concerto che era stato dedicato proprio a Pierantonio Pezzinga, mio amico carissimo nonché compagno anche di varie lotte. Pierantonio oltretutto sarà molto presente anche in questa puntata di stasera. 451 intersezioni riparte con il suo solito programma per le prossime puntate, per i prossimi lunedì, sempre dalle 20 alle 21, e se volete potete anche estrapolare le puntate in podcast in MP3 o appunto scaricarle anche dal nostro blog, no blog in realtà, 451 frammenti sonori.noblogs.org, dove troverete sia le puntate dello spazio 451 frammenti sonori, che è condotto usualmente dal mio compagno nonché amico Max Macchia ogni mercoledì da mezzanotte alle 2 di notte, e anche le puntate di 451 intersezioni che va sempre in onda ogni lunedì dalle 20 alle 21, almeno i primi tre lunedì del mese, ma questa è una data indicativa. Alle volte ci saranno delle puntate speciali, come è successo in questo mese di novembre, dove le tre puntate precedenti sono state condotte appunto da altri conduttori ad hoc. Ricordiamo giustamente, un concerto e un evento così importante come questa reunion degli Errico, ovviamente parziale anche perché alcuni non ci sono più, ma un concerto sicuramente da non perdere, che ci ha sicuramente emozionato almeno noi di 451. E Pierantonio Pezzinga appunto sarà presente, molto presente anche in questa puntata, in questa trasmissione, nel senso che stasera ho ideato questo tema, questo percorso narrativo sonoro dedicato a un tema che oltretutto sta attraversando in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, purtroppo, la nostra cara e disgraziata Italia. Parliamo appunto di distruzioni ambientali, un gioco anche di parole, perché affronteremo musicalmente materiali che si legano all'ambiente, alle registrazioni ambientali, al field recordings, al microfonaggio di suoni, rumori e dimensioni umane nonché sonore anche legate all'ambiente, dunque a dimensioni legate alle devastazioni dell'ambiente. Con questo gioco affronteremo il tema ovviamente della tutela del territorio, della salute e dell'ambiente, che in Italia è sempre più devastato. Sicuramente è stato un là la sentenza che ha appunto bloccato tutto l'iter processuale legato al caso amianto che aveva colpito per decine d'anni moltissimi lavoratori e l'ambiente circostante e le città in cui erano situate le fabbriche d'amianto. Una sentenza ovviamente shock e scandalosa, ma non tanto sul piano giuridico ma sul piano politico e sociale. Questa è una delle tante, perché poi ci sono state sentenze abbastanza vergognose connesse alle morti, agli inquinamenti ambientali come a Porto Marghera, ma ci sono moltissime indagini in corso e dimensioni ormai scoperte legate alla devastazione territoriale, come ad esempio in Campania, nel Lazio, ma anche nella nostra regione Emilia Romagna. Anche è stato abbastanza esplosivo il servizio della domenica scorsa di Report dedicato a Era, in cui sono uscite fuori delle cose legate appunto al rischio inquinamento, al rischio anche tossicità legato a depositi, a rifiuti rifiuti, a sospette dimensioni occultate. In realtà non voglio entrare in una dinamica di tipo legalitario processuale, ma poi il servizio faceva vedere solo parti di tutta una serie di contraddizioni e di pericoli connessi all'ambiente. In realtà poi la dimensione legata anche allo smaltimento dei rifiuti, o ad esempio l'inceneritore di Granarolo, che sempre viene lasciato in parte, non affrontato, insomma i danni, le conseguenze sull'ambiente, ma poi in principal modo anche sulla salute degli uomini, ma anche degli animali, appunto del territorio circostante, è sempre più inquietante, sempre più sospetto, se non quasi certo, rispetto a tutte le conseguenze che ci viviamo. Poi entra in campo chiaramente anche il dissesto idrogeologico del territorio, con tutte le alluvioni, le frane, i morti, le distruzioni. In questo contesto è chiaro che noi sguazziamo molto dentro questa materia. Io personalmente, anche perché oltretutto non mi sono presentato, chi ci sta seguendo da questa stagione forse riconoscerà la mia voce, ma la conduzione è di me, sottoscritto Elisio Scarpa, ma insieme per Antonio Pezzinga portavamo avanti già da alcuni anni, con dei collettivi di lotta sul territorio auto-organizzati, delle battaglie appunto di difesa dell'ambiente, della salute, che anche qua, seppur viene occultata, è continuamente sotto attacco. E proprio per questo sicuramente Pier Antonio sarebbe ben contento di affrontare questo tema all'interno di 451 Intersezioni. Spesso portava avanti delle puntate dove la musica risultava quasi marginale, per il tempo che dedicava a leggere articoli, a denunciare situazioni sempre di soprusi sul lavoro, sullo sfruttamento e soprattutto negli ultimi tempi sui danni legati appunto all'industrializzazione più sfrenata, all'inquinamento e ai danni ambientali. In questo sicuramente sarebbe ben contento di affrontare questo tipo di tematica, forse un po' meno per quanto riguarda le scelte musicali, che molte volte ci trovavano vicino, ma in alcuni casi anche lontano, come soprattutto le tematiche di tipo più prettamente elettronico, che lui amava meno sicuramente del sottoscritto. Dunque, devastazioni ambientali, distruzioni ambientali, questo è il primo capitolo di un percorso ovviamente sonoro narrativo che apriremo con un progetto estremamente militante, estremamente combattivo, un collettivo, gli Ultra Red, formazione nata alla fine degli anni 90 a Los Angeles. Sono veramente dei compagni militanti che agiscono un po' in tutto il mondo, spesso hanno fatto delle vere e proprie registrazioni in situazioni di occupazione di case, di centri sociali, ma anche quasi dei report giornalistici sonori di quello che ad esempio era successo alla fine degli anni 90 in Serbia, microfonando gli effetti delle bombe, le fughe, le distruzioni in Serbia dall'attacco della NATO, ma anche in tantissime altre dimensioni, come in alcune guerre particolari in Medio Oriente o in dimensioni di lotta connesse soprattutto a Occupy Wall Street. Dunque, compagni militanti che portano avanti un discorso di field recordings, di microfonazioni, di situazioni e di lotte, e andiamo a pescare, legate soprattutto all'idea della distruzione ambientale, dunque del soffocamento e dell'inquinamento del territorio, dunque anche degli effetti nefasti nei confronti della salute della popolazione, un disco che chiaramente è una denuncia della industrializzazione sfrenata, senza però chiaramente avere un approccio quasi legato al passato, un ritorno quasi a un'idea contadina, senza appunto avere una dimensione prospettica futurista legata anche al progresso. Ecco, l'approccio degli Ultra Red non è questo, non è quello di tornare a zappare la terra, a distruggere ogni tipo di tecnologia, anzi lavorano sulla tecnologia, ma denunciano ovviamente le distruzioni, l'industrializzazione sfrenata e l'inquinamento sonoro, oltre che ambientale, di un capitalismo sempre più selvaggio che sta devastando l'intero pianeta. L'album in questione è Structural Adjustment del 2000, uscito per la Mill Plateau, dove appunto viene espresso attraverso una collezione, una devastazione devastazione anche sonora, l'effetto appunto della masticazione industriale del territorio. Il brano che andremo a sentire in apertura di questo percorso narrativo sulle distruzioni ambientali è tratto appunto dal disco Structural Adjustment del 2000, bello questo inglese mangiato, un po' maccheronico, forse un po' causato dalla cena che incombe, dunque dalla fame che anche su di me sta incombendo, dal brano che apre il disco, è il nuovo urbanismo, appunto il nuovo urbanismo, ce l'andiamo a sentire, preparatevi, qualcuno dirà ma non è che è successo qualcosa, un'interferenza, perché sentirete proprio in apertura un trapano che rappresenta proprio l'idea della distruzione e l'idea dell'impatto industriale indiscriminato che viene appunto a aprire il percorso narrativo di stasera sulle distruzioni ambientali. Andiamoci a sentire e anche a sostenere, perché dobbiamo sostenere un bel impatto sonoro iniziale, i grandi Ultra Red. Buon ascolto. siamo rientrati in diretta dopo questa vera e propria devastazione, questo vero e proprio terrorismo sonoro legato a questo splendido lavoro del 2000, che non vi ripeto perché sennò faccio altri erroraci. Comunque poi dal disco di Ultra Red potrete andare a estrapolarlo in maniera precisa dal nostro blog, dove inseriremo chiaramente scalette dei brani, dei dischi inseriti, degli autori, e anche ovviamente la puntata in podcast, sempre su 451frammentisonori.noblogs.org. Consumo del territorio, ovvero messa a valore totale del territorio in termini proprio di profitto, e questo è un po' l'elemento che ha caratterizzato anche molte denunce attraverso dischi, performance degli Ultra Red, che sono in prima linea su queste battaglie politiche e ambientali. E la puntata di oggi, appunto, dedicata alle devastazioni, alle distruzioni ambientali, si sviluppa poi dentro un calderone molto inquietante rispetto al nostro paese. Insomma, sappiamo, o almeno si spera che molti sappiano, che cos'è lo Sblocca Italia del governo Renzi, che è un ulteriore lascia passare per ulteriori devastazioni territoriali del territorio, nuove costruzioni, nuove dimensioni di viabilità, dunque nuovo cemento e nuovi rischi legati alla distruzione ambientale, a frane, a smottamenti, a distruzioni. Beh, chiaramente gli interessi dietro questa partita speculativa sono enormi, d'altronde si sa che in Italia c'è questo tipo di obiettivo da parte del capitalismo italiano, e non solo, di investire, di sfruttare al massimo il territorio. Le battaglie del movimento NOTAV che portano avanti da anni il movimento, l'area antagonista, è proprio quello di cercare di fermare un'opera devastante per il territorio italiano, e non solo, ma anche quello francese, ed è legata a tutta una serie di battaglie legate all'ambiente, come il NOMOS e tantissime altre che si stanno sviluppando sul territorio italiano. La speranza è che si allarghi la coscienza, la consapevolezza, chiaramente. Già un primo segno interessante ci può essere proprio in queste ultime elezioni, quelle di ieri, le regionali, che hanno avuto un tracollo totale del sistema parlamentarista e delle istituzioni. Insomma, arrivare sotto il 40% di presenza alle elezioni in Emilia-Romagna è veramente allucinante. Il primo partito in assoluto senza rivali è proprio il partito dell'astensione, del non andare al voto, oltre al 60%, ma è veramente allucinante leggere poi le dichiarazioni dei vari Renzi e dei vari capoccia e potenti del centro-sinistra, che continuano a dire che hanno vinto, dunque grande risultato con sotto il 40% di presenza alle elezioni. È veramente imbarazzante leggere queste cose, ma d'altronde sembra ormai che anche quel simulacro di democrazia borghese elettiva si stia piano piano sgretolando. Ormai non gli interessa nemmeno più verificare i numeri, basta vincere, anche se saranno in due a votare in futuro, se prendono i due voti hanno vinto, dunque grande risultato. Siamo a questi livelli, e all'interno di una regione che è sempre stata propugnata come una regione attenta all'ambiente, dove tutto girava perfettamente. Insomma, piano piano, piccoli servizi, piccole denunce anche a livello di media mainstream incominciano ad uscire, sempre molto a fatica, ma qualcosa esce. Le aree auto-organizzate di movimento, che da anni portano avanti un discorso di denuncia invece anche in questa regione di varie devastazioni che hanno causato anche varie problematiche, morti e distruzioni, rimangono sempre un po' all'angolo, ma continuano a portare avanti questo tipo di battaglie. E dentro il discorso di istruzioni ambientali di stasera, dopo l'attacco vero e proprio terroristico sonoro degli Ultra Red, ci spostiamo e incontriamo due autori, in particolar modo Aidan Becker, musicista americano che però vive ormai da anni a Berlino, lavora con moltissime etichette indipendenti, si muove su una dinamica di musica elettroacustica, ma anche ambientale, con delle anche venature di ricerca legata alla Field Recordings, alla musica concreta, che ha costruito insieme a un altro musicista che noi amiamo molto di 451, Tim Hacker, tutti e due autori nati negli anni zero, dunque autori recentissimi. Tim Hacker invece musicista legato a un concetto di elettronica rumorista e ambientale, ha costruito un vero e proprio suono originale, e non è facile nel settore comunque connesso all'ambient in senso lato, in senso più ampio, riuscire a costruire quasi un ambient drone rumorista con una sua vera e propria etichetta, quasi una sua firma assolutamente originale. Insieme ad Aidan Becker hanno portato avanti un progetto musicale uscito nel 2008, dove si fondono appunto le due anime sonore, le due personalità, Fantasma Parastasi, uscito appunto nel 2008 con varie moltissime tracce, piccoli frammenti che portano avanti un discorso sonoro legato a un ambient drone e a una dimensione in alcuni momenti anche rumorista, che rappresenta a livello sonoro, almeno noi cerchiamo di rappresentare, un percorso narrativo dentro un'idea appunto legata alla distruzione ambientale. Dunque ci affoghiamo dentro questo percorso sonoro attraverso il lavoro di Aidan Becker e Tim Hacker, e continueremo il nostro percorso un po' inquietante, un po' di denuncia, un po' soffocante, ma d'altronde la materia è estremamente importante anche per il nostro futuro, ma soprattutto per il nostro presente. La distruzione ambientale, dunque, l'idea e la speranza che si possa portare avanti un discorso popolare di contrasto a questo tipo di dinamica che sta attraversando il paese ormai da decenni e continua a marciare verso questa direzione, soprattutto dopo gli ultimi annunci di questo caro e simpatico governo Renzi. Buon ascolto con Aidan Becker e Tim Hacker. E abbiamo ascoltato e spero apprezzato questo percorso sonoro che ha mixato lo splendido lavoro Fantasma Parastasi di Aidan Baker con Tim Ecker. Abbiamo mixato con un vero e proprio tributo, un omaggio alla dimensione ambientale di una terra a noi molto lontana, la Groenlandia, e in particolare la sonorizzazione, la microfonazione del mare di Barents tra Groenlandia e Norvegia, realizzata da un'autrice estremamente interessante di questi ultimi anni, Jana Vinderen, musicista inglese che da anni si è stabilita appunto in Groenlandia e in Scandinavia, e ha portato avanti tutta una serie di registrazioni, di microfonazioni dell'ambiente, dei suoni di questo territorio assolutamente suggestivo, affascinante, cercando appunto anche di far emergere che cosa rischiamo di perdere, che cosa rischiamo di perdere in termini anche semplicemente sonori rispetto appunto all'ambiente che stiamo piano piano devastando, ma neanche tanto piano piano, insomma, negli ultimi decenni la velocità in cui il capitalismo mondiale ha portato avanti la distruzione e la vera e propria messa a profitto di ogni risorsa ambientale veramente incredibile. Oltretutto questa registrazione avvenuta nell'aprile del 2010 è avvenuta proprio anche vicino a tutta una trivellazione, una serie di trivellazioni della zona di Groenlandia, sempre per andare a ricercare questo dannato petrolio e non solo, che porta avanti l'energia di un pianeta sempre più allucinato e allucinante rispetto al percorso che stiamo portando avanti. Jana Vinderen dunque da questo album splendido della Touch, Energy Field, è uscito alla fine del 2010, a cavallo tra il 2010 e il 2011. E da Jana Vinderen, ecologista e in prima linea nelle battaglie ambientali, ci spostiamo neanche poi molto, insomma, andando a pescare un progetto di un personaggio che si muove sulla scena musicale sperimentale dagli anni zero, dal 2001, ha realizzato vari dischi soprattutto per l'etichetta che noi amiamo molto, della Cranky, dal 2001 appunto, e il disco che abbiamo pescato per portare avanti questo percorso sonoro narrativo legato alle distruzioni ambientali è il disco Stasis, uscito nel 2006. Il progetto musicale è Loshil, alias Scott Morgan, musicista canadese che porta avanti appunto negli anni zero tutto un lavoro musicale che incrocia tra ambient, drone, field recordings, microfonazioni e installazioni sonore. Andiamo dunque a ripercorrere anche questo fiume di suoni e di atmosfere suggestive che possono appunto ricordare anche i momenti estremamente suggestivi che possono esserci attraverso l'ascolto semplicemente del vento, del suono del mare o di tutto ciò che circonda il nostro ambiente vitale, e anche cogliere ovviamente delle note di inquietudine, di tristezza e di preoccupazione attraverso i suoni che anche Scott Morgan cerca di rappresentare attraverso queste microfonazioni ambientali per denunciare anche gli un discorso connesso appunto alle devastazioni, alla sussunzione totale dell'ambiente e del territorio circostante. Tutti questi autori sono in particolar modo impegnati sulla scena della difesa dell'ambiente, ovviamente non legata a un'idea passatista o strettamente connessa quasi a un ritorno alle origini, un ritorno al passato, ma sempre in un'ottica avanzata, tant'è che lavorano su tecnologie elettroniche, su tecnologie avanzate, ma verso un'idea di un futuro dove la tecnologia e la ricerca anche dell'energia non sia a danno dell'ambiente o contro, diciamo, gli equilibri dell'ecosistema, che vanno poi a coinvolgere la nostra vita quotidiana individuale, che è sempre più devastata e sempre più frenetica e assurda, legata a dei parametri che non portano certamente benessere ma soltanto appunto Alienazione. Andiamoci a godere dunque anche questo piccolo brano tratto dall'album Stasis del 2006 del progetto Loschill. Thank you. E lasciando i territori sonori di Loshill, Scott Morgan dall'album Stasis, andiamo a concludere questo primo capitolo del percorso narrativo di stasera legato alle devastazioni, alle distruzioni del territorio, alle distruzioni ambientali. Primo capitolo che sicuramente si svilupperà nel corso di questa stagione radiofonica 2014-2015 su Radio Fujiko all'interno dello spazio 451 Intersezione. E per chiudere questo primo capitolo di questo percorso narrativo riguardante le distruzioni ambientali del territorio, andiamo a pescare un autore messicano, anch'egli in prima linea nella lotta alla devastazione dell'ambiente, Murkoff Fernando Corona, musicista che anch'egli è nato nel percorso degli anni zero, e abbiamo tratto un brano che è molto suggestivo per chiudere al meglio questo percorso narrativo, tratto dall'ultimo album realizzato da solo, Le Sangre Illuminada, uscito per l'Intolleranza alla fine del 2009, inizio 2010. Successivamente poi ha realizzato Murkoff altri due album insieme ad altri musicisti, ma come disco proprio personale l'ultimo lavoro realizzato oltretutto è una colonna sonora di un film messicano, La Sangre Illuminada. Chiudiamo proprio con Murkoff questo percorso sulle devastazioni ambientali e ricordiamo chiaramente che i materiali, la trasmissione, la scaletta dei brani degli autori la potete sempre ritrovare dopo qualche giorno sul nostro blog 451frammentisonori.noblogs.org, e vi ricordo ovviamente mercoledì prossimo la puntata di 451 frammenti sonori, sempre da mezzanotte alle 2 di notte circa, condotta da Max Macchia. Vi lascio dunque con Murkoff e ovviamente buon ascolto, e teniamo duro rispetto alla lotta contro la distruzione dell'ambiente, che in Italia ce n'è parecchio da fare. Buonanotte.